blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. No, niente, noi siamo arrivati e c'era un bordello e tipo eravamo in mezzo al corteo, casino, hanno spaccato un po' di robe così. Perché? Perché? Perché è una protesta, nel senso. La protesta, secondo te, non è violenza fine a se stessa questa? In che senso non è violenza fine a se stessa? No, è una protesta, è tipo bordello. Lanciare le molotov alla polizia? No, vabbè, ma è una protesta, ripeto, cioè, giusto. È giusto così? Certo, perché cioè, noi dobbiamo far sentire la nostra voce, secondo me. E se non lo capiscono quelle buone, prima o poi capiranno in qualche altro modo, nel senso. Cioè, i politici, le persone normali, c'è un divario enorme. Non hai avuto paura? E poi loro rubano. Non hai avuto paura? Vabbè, paura un pochino. Perché più che altro è esaltato, perché vogliamo avere anche qualcosa in mano per spaccare qualcosa. Questo è Mattia di Pavia, eroe per un giorno, eroe negativo, in quanto simbolo del devastatore di Milano. Simbolo dell'orda giovanilistica che, nero vestita, ha dato l'assalto a quella che nella carta dovrebbe essere il luogo eletto dell'innovazione, l'Expo 2015, il food equo e solidale, il cibo sostenibile, i padiglioni di tutto il mondo, ma in realtà abbiamo visto una contrapposizione fortissima. L'Expo, inaugurato da un signore di 76 anni, il geometra Romano Bignozzi, che avvolto nel tricolore riceveva l'abbraccio di Matteo Renzi, colui che è stata l'anima, il cronoprogramma dell'Expo, colui che con carta e penna sarà segnato tutti i tempi che sono stati precisi al minuto. Bello lì con quel bel giubbottino fosforescente sopra la giacca e cravatta, come i nonni vigili che fanno passare i bambini la mattina davanti alle scuole, che si rendono utili alla società. Quindi abbiamo da un punto di vista l'Expo che dovrebbe rappresentare la punta più avanzata del futuro. L'Expo ha sempre rappresentato il futuro presente. L'Expo ha presentato ciò che ancora non appare agli occhi del mondo, perché è nella testa soltanto di chi pensa le cose avveniristiche. In realtà era il trionfo dell'orticello, il trionfo dell'orticello urbano, che è il capolavoro di bricolage agricolo di ogni Umarell. E la gioventù, i veri innovatori, coloro che dovrebbero essere sempre avanti, dovrebbero protestare contro il vecchio mondo, erano in piazza, rappresentati da Mattia di Pavia, il giovincello vestito di nero che, preso da una sorta di Sturm und Drang tardivo, sentiva il furore della battaglia e sentiva di passare un momento storico. Ma come dicono a Perugia, tal fiolo se fa il black block, tocca daje col venco te cianchetti, tradotto, bisogna dargli con un giunco sui polpacci. No, io chiedo scusa a tutti perché ho usato un linguaggio sbagliato per spiegare un'emozione che stavo provando in quel momento. E mi scuso con tutti, assolutamente. Io non andrei mai a distruggere la macchina di altri privati cittadini che pagano le tasse come i miei genitori. Ma i tuoi genitori ti hanno visto in TV? Che ti hanno detto? I miei genitori ci hanno dato un ceffone, ti hanno detto? No, mio padre si è incazzato di brutto, è incazzato ancora adesso, e lo stesso mia madre, lo stesso tutta la mia famiglia, e io so di aver dato un segnale sbagliato. Poi sui suoi genitori è scattata la satira su di te con le pagine Facebook. No, ha fatto bene, perché mi sono comportato come un coglione, ho usato un linguaggio, cioè in quel momento ho istigato la violenza quando io non sono una persona violenta e ho espresso male la mia emozione che provo in quel momento di... Una radicale e profonda mutazione genetica anche nell'antagonismo militante. Dal giovane afroamericano preso a calci nel sedere dalla robusta mamma di Baltimora che lo trascina fuori dai disordini, anche se leciti, causati da un omicidio nei quartieri di quella città, è scattato un meccanismo a orologeria per cui ormai i genitori hanno deciso di agire direttamente sulle frange irrequiete. Non so se si usi il venco, un suo corrispondente dalle parti di Pavia avrà usato la catena di cipolle, avrà usato il sacco di patate, avrà usato il mattarello per fare i tortelli con la zucca, non so bene esattamente cosa abbia usato, ma comunque questo Mattia di Pavia, dopo poche ore, già era diventato lo zimbello della rete, ha fatto un vergognoso auto da fé e si è dimostrato disponibile di andare insieme ai gloriosi Umarell, che con la spugna e il via va sono andati in giro per le città di Milano a togliere l'onta delle scritte che avevano lasciato i teppisti. 800 24 00 24. Dove sono i rivoluzionari? Dove sono i passatisti? La guerra di Troia è stato un bel bordello, mi ricordo, è stata così una bella esperienza, siamo stati, eravamo tutti dentro al cavallo, no, scusi, a fare il bordello. No, mi scusi, poi... lei non mi può far credere che lei era presente durante la guerra di Troia. Sì, minchia, oh, io dove c'è, dove c'è manifestazione, dove c'è devasto, dove c'è bordello, ci sono io, ci sta. Credo che lei in questo momento viva un attimo fuori dal mondo, ma andiamo avanti. Ci dica qualcosa della prima guerra mondiale, per favore. Minchia, la prima guerra mondiale... Prima guerra mondiale è stato davvero un bel bordello, ci siamo divertiti, eravamo in mezzo alla folla, così tutti che sparavano, una bella... Ecco che la rete, l'humus in cui cresce il dissenso, in cui si coltiva lo spirito antagonista, colpisce come un boomerang quelli che diventano i suoi protagonisti, e quindi il giovane Mattia di Pavia ormai vive e sopravvive moltiplicato in mille emulazioni, in mille fake, in mille prese in giro. Il fatto che il padre l'abbia preso per le orecchie, sia andato al Corriere della Sera, abbia detto mio figlio è un pirla, da una scossona velocissima a quello che è tutto lo spirito di innovazione. Ma cos'è? Quale sarà lo spirito del tempo? Quale sarà la chiave di lettura della contemporaneità? Esiste un uomo, un antropologo urbano, che è stato per lungo tempo deriso come se fosse una sorta di creatore di facezie di provincia. In realtà oggi è l'osservatore più attento e più documentato di questa mutazione. Danilo Maso Masotti, buongiorno. Buongiorno. Tu praticamente hai avuto la tua apoteosi nella giornata di ieri, hai visto glorificato dall'abbraccio del Premier il geometra Romano Bignozzi, che penso che sia il capostipite, il punto di arrivo, l'apoteosi di ogni visione umarellica della realtà. Sì, cioè, Bignozzi si è presentato con la sua tenuta e che cosa ha fatto? Cioè, ci ha fatto capire che comunque l'Expo è il trionfo dell'umarellismo. L'Expo lo si era già capito in questi giorni, in questi mesi, appunto con tutti questi cantieri. Ho visto tante persone che non avevano mai sentito parlare di Umarells interessarsi agli Umarells, cominciare a notarli, cominciare a fotografarli, cominciare a intervistarli e a capire la vera passione di questi Umarells nei confronti di questi cantieri. Perché per paradosso era più interessante per gli Umarells l'Expo finché era un cantiere, piuttosto che adesso che è una grande fiera di paese. Sì, cioè, ma infatti all'Umarell non credo che interesserà l'Expo, ma quello che interessava all'Umarell era la costruzione dell'Expo ed eventualmente agire, dare dei consigli alle maestranze in modo tale che il cantiere fosse finito in tempo. Infatti Bignozzi poi ha spiegato il trionfo dei suoi calcoli, che non ha certo fatto i calcoli con dei computer, con dei mezzi sofisticati, calcolatrice incredibili, ma con la matita. Lui esaltava al massimo con il regolo, visto che geometra aveva un regolo probabilmente. Senti una cosa, Danilio, perché l'idea del food equo solidale, degli orti urbani, dei cibi naturali in realtà non è un progetto avveniristico, e forse proprio per questo i giovani antagonisti lo osteggiano? È qualcosa che fa parte proprio dello stile di vita e della filosofia dell'Umarell. Sì, filosofia dell'Umarell, filosofia della nostalgia, della miseria, filosofia del coltivare i prodotti nell'orto. Cioè l'Umarell, quando in età umarellica, cioè va in pensione, la prima cosa che fa dalle mie parti è chiedere un orto urbano e in questo spazio, cioè, coltivare le proprie cose e poi nutrirsi dei prodotti dell'orto, della frutta, della verdura, così autoprodotta. Quindi diciamo che la chiave filosofica che anima questa Expo è, naturalmente, noi già ce l'avevamo in casa, c'era qualcosa, si viveva comunque quotidianamente nella provincia. Fermiamoci un attimo, resta in ascolto, Danilo, perché per la parte più interessante tu sei anche un testimone oculare. La violenza e la rabbia dei giovani nei confronti di questo modello, che è un modello in fondo rassicurante, è un modello antico, è un modello che è la chiave di sostentamento del PIL nazionale. L'Umarell, come ha scritto Masotti in vari libri, con la sua pensione, con la sua opera quotidiana di babysitteraggio, è quello che tiene in piedi l'economia delle giovani famiglie. Perché i giovani ce l'hanno tanto con questo modello? Alberto, buongiorno. Buongiorno. Ma io credo che la violenza non ha nessun tipo di giustificazione. Cioè, bisogna che il messaggio al paese, secondo me, sia univoco per tutti. E io propongo anche una cosa: chi usa violenza per me non deve essere messo in galera, deve essere fatto come in altri paesi del mondo, 3 mesi, 4 mesi di lavori socialmente utili. Cioè non c'è bisogno di punire le persone, ma lo devono sapere prima, perché l'uso della violenza è la peggior cosa che un individuo può ma fare. Ma lei cosa direbbe di sottoporre questi ragazzi? Li stanno individuando con il DNA lasciato nei caschi, con gli scatarri lasciati nei passamontagna, con le caccole lasciate dentro i calzini, metterli a lavorare negli orti urbani, potrebbe essere un'idea. Bravo! A pulire le strade per 3 mesi con un braccialetto elettronico, che devono essere controllati la mattina, e che da loro la scossa, se per un attimo si fermano anche. Sì, ma questo dovrebbe essere fatto per tutti gli atti di piccola violenza, come fanno in Inghilterra. Guardate che bisogna copia e incolla, non bisogna riempire le prigioni, però bisogna sapere che chi fa violenza, chi ruba, fa le piccole cose, lo sa qual è? Si fa lavori socialmente utili e pulisce le strade con una scopa, e quando sanno questo, io credo è un deterrente, perché vede cosa succede oggi in questo paese. Se vengono in casa mia, mi rubano un portafoglio la notte, allora vengono messi in galera, dopo 2 giorni sono fuori, escono, e mi rubano un altro. Questo dobbiamo dire a chi usa violenza e chi fa queste cose: lavori socialmente utili. E mi scusi una cosa, risparmieremmo anche un po' di spesa pubblica, perché se le strade venissero pulite e mi scusi, i disastri idrogeologici, la montagna, i fossetti venissero puliti da persone che hanno commesso atti di violenza di questo tipo, mi creda, potremmo dare un messaggio al paese che la violenza non si usa, e chi la usa ha una punizione non in galera. Allora, però, ma quello che dice Alberto richiede un approfondimento, perché io mi pongo una domanda. Benissimo, diamo per assurdo che la proposta dell'ascoltatore Alberto sia presa seriamente, perché è serissima la proposta in sé, la condivido. Tutti i ragazzi incolpati, accusati, accertati come protagonisti delle violenze urbane siano condannati ai lavori socialmente utili, e viene quindi deciso di non pulire le strade, pulire i cassonetti, togliere le cacche dei cani, lavorare agli orticelli e agli aioli. Ma chi fa l'addestramento di questi ragazzi? Qua torna chiaramente la chiave di lettura di Masotti. Masotti sarebbe un'occupazione per gli Umarell. Sì, chi meglio di Umarell insegna ai ragazzi a pulire? Perché Umarell questi lavori li sa fare da sempre. Sì, cioè, una cosa che sta venendo sempre meno è l'importanza dell'esperienza dell'Umarell. Invece l'Umarell dovrebbe insegnare ai più giovani queste cose, che i giovani magari non le sanno. Diciamo, il gruppo di disciplina dovrebbe essere composto, mettiamo 5 black bloc legati tra di loro, vestiti di nero perché così rimane l'onta per quello che hanno fatto, e un Umarell che li guida dei lavori tipici che sa fare l'Umarell, tipo, che ne so, staccare i cartelloni pubblicitari abusivi, pulire le scritte sui muri, questi, quei lavori di aggiustamento con la calce quando casca un pezzo di cornicione o di intonaco. Sì, lavori di questo genere, perché i giovani devono imparare questo, perché invece i giovani, l'unica proposta che gli viene comunque proposta appunto è magari andare a lavorare gratis all'Expo, e qui magari si arrabbiano i giovani. Perché? Perché stanno meglio a casa con l'Umarell che li mantiene? No, sì, perché non hanno bisogno di quei soldi. Dico, ma scusa, perché devo lavorare gratis? Ho già l'Umarell che mi dà il soldo, quindi l'Umarell, invece di dare il soldo, dovrebbe anche comunque dare esperienza. Ecco, e in questo mi sembra un discorso fondamentale. Fermati un attimo, Danilo, devo dare le informazioni sul traffico, poi riprendiamo, perché questa sorta di connubio tra generazioni antiche, però piene di sapere, generazioni contemporanee, in realtà, che vivono allo sbando, sanno solo distruggere e non hanno un'idea costruttiva, potrebbe dare in piedi un modello di occupazione reciproca. L'Umarell diventa il carceriere e l'addestratore di coloro, dei giovani che sbagliano, li porta per strada a fare lavori socialmente utili. Melog, cronache meridiane. Sparategli in fronte, urlava la signora Umarella dalla finestra di Milano assediata. fra l'esplodere delle bombe e il fischiare della mitraglia, gridava sparategli in fronte. Però anche lei il giorno dopo, intervistata alla televisione, dice: no, scherzavo, sì, ho detto sparategli in fronte, ma era un modo di dire, così innocuo. E anche lei, poverina, con la sua scopettina e con il suo pennellino, sta pulendo lo sconcio nella sua strada. Certo, vedo che il senso di ironia abbonda, straripa negli ascoltatori. Mi bruci la macchina, ti condanno a pulire la carcassa, risponde uno. Ma va a cagare, questo lo dice a me, per dire, è un paradosso. Accetto le scuse di Mattia, adesso piacerebbe regalargli 2 anni di lavori forzati per risanamento e dissesto ideologico. Che uomo di merda, Mattia di Pavia, vigliacco, demente, non ha neanche il coraggio delle proprie azioni, ci vorrebbe l'eugenetica con simili sgorbi umani. Ma poveretto, un povero ragazzino che è stato preso in giro da una telecamera, ha detto che ne pensi e ha voluto fare lo spaccone. In realtà non ha fatto nulla, nemmeno tirato fuori dallo zainetto il panino con la mortadella e ha fatto cadere per terra un pezzettino di mortadella unta, manco quello, totalmente innocente. E ci ha provato a essere protagonista un giorno di quello che gli sembrava l'unico momento epico, ma in realtà ci è rimasto male. Maria Teresa, buongiorno. Buongiorno. Lei sarebbe disponibile a seguire un corso di rieducazione di Black Bloc a lavori socialmente utili? Cosa saprebbe insegnare lei? Assolutamente sì, ma dalle cose più banali, nel senso che io penso che quello che vogliono questi ragazzi è, come diceva lei, il loro momento di gloria. Vabbè, ammesso che devono adesso pagare, lei a cosa li rieducherebbe? A quale tipo di operazione? Cosa sa fare bene lei? Se gliene dessi 5 in dotazione, cosa ne farebbe? Ma non lo so, gli insegnerei a pulire, a cucinare, visto che parlano di distruzione, di andare durante le alluvioni, durante i terremoti. Adesso non ci sono alluvioni sotto mano. Ci sono stati dei terremoti però ancora stamattina. Mandiamoli nelle macerie a vedere che cosa vuol dire fare le macerie. E poi soprattutto iniziamo a parlare anche invece della gran parte dei bravi ragazzi che spendono il loro tempo il sabato pomeriggio, ad esempio, nel tenere bambini, che spendono il loro tempo nell'andare negli ospizi delle persone anziane e magari ad accudire proprio i nipoti di questi black bloc che vanno a distruggere, e invece i bravi ragazzi vanno a tenere compagnia ai loro nonni, a farli giocare a tombola. Perfetto, lei ha trovato una soluzione. Non c'è pena peggiore che andare a giocare a tombola nei centri anziani. Di fronte a questo sporacchio sicuramente ci penserebbe 2 volte prima di andare a rompere le vetrine delle banche. Mi sembra giusto. Andrea, buongiorno. Nicoletti, sa. Sì, la sento interrotto. Riprendete Andrea. Paolo. Eccomi, buongiorno Nicoletti. Senta, io quello che voglio contestare, proprio perché sento in trasmissione, continuate a definirli giovani. Beh, c'hanno dai 16 ai 20 anni. Vecchi, guarda che vi sbagliate di grosso, eh. Ah, beh, sì. Chi frequenta, chi ha un po' di conoscenza dei centri sociali, e io qualcuno ne conosco direttamente, posso garantire che sono per lo più ultra trentenni e qualche quarantenne. E qualcuno di quelli che è stato arrestato anche in questi giorni, ad esempio la ragazza che ha partecipato al pestaggio del poliziotto a manganellate, quella che diceva facciamo sesso selvaggio in cella, 33 anni, ma di che ragazzi stiamo parlando? Cioè i giovani, l'immagine che si è dato, che siano lì ragazzi di 16 anni, 18, ma quelli che avevano in mano i manganelli e tiravano le bombe carta sono tutti per lo più trentenni. I centri sociali sono pieni di questa tipologia di persone. Ma lei non trova che paradossale, onestamente, che le stesse persone che il giorno dopo andavano a pulire Milano, cioè diciamo i sessantenni, facevano in gioventù le stesse cose che facevano i loro bisnipoti? Cioè non hanno cambiato di una virgola le stesse cose che facevano nel 68 i nonni, oggi fanno i bisnipoti. Ma le dico di più, queste diciamo ragazzi che facevano queste cose sono gli stessi che poi vanno a lavorare da McDonald's. Beh, certo. Io lo garantisco, è gente che poi va a lavorare al call center, al McDonald's, cioè gente che è mantenuta dal sistema che loro vogliono abbattere. Non c'è un'idiozia di fondo in questo tipo di atteggiamento. Quindi è uno sport estremo, niente più che uno sport estremo. Assolutamente sì, è una ultramoda. Proprio qua siamo arrivati a concepire una, non si fa più free climb, si fa questo. ed è tutto estremamente organizzato, perché c'è dietro proprio un gusto, un divertimento nella devastazione. Ma è un po' come quando, diciamo, le signore nei paesi, dico in Umbria, in Toscana, città d'arte, si vestono da damine rinascimentali e vanno a fare la parata con i balestrieri. Si vestono bravissimo. A 68 uguale. È una, bravissimo, è una grande proloco, diciamo, l'organizzazione dell'antagonismo in Italia è una grande proloco. Danilo Masotti, che ne pensi? Sì, l'antagonismo organizzato come una proloco che organizza, che ne so, i balestrieri di Gubbio o il Calendimaggio di Assisi, uguale. Sì, sono usate così, tipo il palo della cucagna, con i sacchi, e quindi si ripetono questi riti, diciamo, in chiave più moderna. Però scusa Danilo, magari... hai notato che il grande fungo dell'Expo Italia non somiglia al calcio in culo senza seggiolini? Sì, sì. È uguale. Sì, ma sono dei simboli che tutti noi conosciamo e pochi notano. No, traduco perché quindi... pensano ho detto una parolaccia. Il calcio in culo, quella giostra che gira con tanti seggiolini, si chiama calcio in culo perché si lavora in due. Uno più piccolo si fa lanciare e quello più grande lo spinge con i piedi con un calcio in culo per prendere il palloncino che si vince un altro giro. Lo spiego perché, sai, nessuno sa ancora più cosa siano queste belle cose di una volta. La cosa che, da quello che ho visto, io non sono ancora stato all'Expo, però ho ancora 6 mesi di tempo per andare a farci un giro, mi sembra molto, così come primo impatto dai servizi che ho visto in televisione, una sagra paesana, un misto tra un Luna Park, un concerto di Violetta, una sagra di paese, così, dove si gira. Come la sagra della fava e il pecorino che c'è in questi giorni nei Castelli Romani. Sì, la sagra dell'asparago ci sarà tra poco qua ad Alteto, però diciamo un po' più in grande, e quindi si va lì, e poi il significato è si va lì, si guarda le persone così e poi si mangia. Beh, deve essere una cosa. Quindi ci divertiremo un sacco di Umarell e andremo tutti all'Expo. Grazie Nello Masotti.